La questione palestinese ripropone in questi giorni il dilemma del bicchiere, mezzo pieno o mezzo vuoto. I sostenitori della prima tesi sottolineano, tra l'altro, il rimpasto del governo Sharon e la visita, domani e dopodomani, di Tony Blair in Israele prima e in Cisgiordania poi. Eventi senza dubbio importanti, ma che qui a Tunisi vengono guardati considerando più valida la seconda ipotesi. Tra gli studenti dell'Università della Manuba prevale lo scetticismo e se ne fa interprete con chiare parole Hassan. Io, dice, credo che lo Stato palestinese sarà una grande prigione a cielo aperto, circondata da reticolati, muraglie di cemento armato. Uno Stato che non avrà mai come capitale Gerusalemme, che sarà definitivamente annessa a Israele. Uno Stato che non potrà accogliere i 6 milioni di palestinesi della diaspora. Non dimentichiamoci che Bush ha, tra l'altro, riconosciuto Gerusalemme come capitale unica e definitiva di Israele ed è autorizzato a trasferire l'ambasciata ed ha varato un progetto di legge che autorizza il governo USA ad adottare sanzioni nei confronti di quegli stati che venissero riconosciuti colpevoli di antisemitismo. E, prosegue ancora Sen, non nascondiamoci il pericolo di una guerra civile tra palestinesi, conseguenza dell'accordo che prevederebbe lo smantellamento delle organizzazioni jihadiste. Lo scetticismo viene anche dall'atteggiamento del presidente egiziano Mubarak, accusato senza mezzi termini dalle colonne dell'autorevole settimanale tunisino Tunis Hebdo di essere complice e non mediatore del progetto americano di espandersi a macchia d'olio in tutto il Medio Oriente. Gli fa eco uno dei più noti giornalisti egiziani, già direttore di Al-Aram, Hassanin Haykel. Il dossier palestinese, dice, va al di là della Palestina e dei palestinesi, fa parte di un vasto progetto che minaccia le nazioni arabe. L'impero americano pianifica e mette in atto questo progetto, del quale Israele è la punta di lancia. Nello stesso momento in cui realizza i suoi obiettivi, occupando i territori e uccidendo quotidianamente dei palestinesi, Israele apre la via alla dominazione americana. E potrebbe far parte di questo progetto anche, con la benedizione di Bush, la successione di Mubarak con il figlio Gamal. Franco Chievegatti, di Reporter Associati per Amisnet Radio.